Ciao, mi chiamo Maria, sono una sarda che vive a Milano, lavoro nell'editoria, leggo, scrivo, faccio cose come tutti voi e oggi voglio leggervi un rap di Alberto Arbasino che purtroppo ci ha lasciato proprio di recente. E il titolo è Il ritorno della casalinga. La casalinga di Voghera. Non è mai stata una vera signora dei salotti o salottini, casotti o casini, né tantomeno una signorina buonasera, che va bene su tutto e con tutti, il rito del cappuccino, il mito dello stuzzichino, il calte degli sfizi con pizze, cozze, coccole, caccole alla rucola per frugoli e topole. Non è più una portatrice cogliona di loghini comuni e pregiudizietti ridicoli. Ora si è data una eccellente regolata, soprattutto sui must e le frasi fatte. Batti e ribatti e strabatti, finalmente diventata anche lei, come tutti, dissacrante e irriverente, controcorrente, fuori dal coro come tutto il giro. Così la casalinga al potere impone come trends e icone tutti i valori post-trasgressivi e neoprovocativi e già lavativi della piccola e piccolissima borghesia. Ma in provincia si trende e si gode a esagerare le ultime mode. Sempre a posto, perfetta, nella sua trasgressione giusta e nella provocazione più che corretta, impietosa e scomoda e sadomaso, secondo il best trend, hard-boiled. Detterà i comportamenti centrali, culturali e civili di sinistra e di destra, anche agli stilisti che determinano il prêt-à-porter globale. Non si hanno più remore né ritegni, signora mia, a Voghera. E poi, com'è ecumenica? Non la si crede mica unica. Quando la va in crociera si rende simpatica chiedendo scusa anche agli eretici e agli scismatici per tutte le mascalzonate di tutti i cattolici. E non solo i crociati o i croceristi di Voghera.